sono 7:30 a lavorare. Se io qualche giorno che faccio in fretta arrivare al lavoro, io, se io uscivo alle 7:15, io devo stare 10 minuti e tempo nel cancello a chi vera, pare si stava svuotando tutti i paesi. Un traffico, un nervoso, no, una volta solo non mi è successo. Uscivo sempre prima, non va bene. Infatti, no, ma dico, lui dice sempre che lavora in ospedale e praticamente se ci metto di meno da Tisi, arrivare in ospedale, che se avessi fosse abitato al monte dove abitavo prima, arrivare all'ospedale ci mettevo di più. Vabbè. Tu pensa che allora io quando andavo da lì al Medo ci mettevo di più, se ti fidi, da casa mia arrivare sulla strada per l'inizio di Alghero che da Olmedo a salire a Sassari. C'era cuve, chite che dà, la tirozzi, che era il traffico, io che trovavo, eccetera, eccetera, un casino per le ore in cui lì mi chiamavo di scendere, ci mettevo di più, mi muovo di più, quando arrivo a Sassari, arrivare a casa mia, gira gira, tiene a fare la ETA. Sì, è così, perché poi trovi il traffico, capito? È un casino quando trovi il traffico. Questo microfono ti piace come esce? Rimane molto metallica come voce. Sì, è la capsula, è come quella delle Turner, capito? Questo è... c'è un signor microfono, costa anche un bel po' di soldi. Come si chiama? Non mi viene un uomo, la Static. Si sente sotto il fondo che sta cantando. Figurati, era l'altra camera. Vabbè, andrà bene. Ma mi sai che mi allontano, mi vado in cucina, mi metto già la fornace, ma la francese a me, la focaccia in forno, che così sarà già scongelata, perché non mi piace metterla congelata. Adesso è scongelata. Se si è scongelata, mi dico sì, e la metto in forno, così. Che so, lui alle 7, così 7:30, da inizio a mangiare, all'otto mi ti cocco. Sono squadronato già, no? È un sabato che a me non piace, sera, lunedì, mattina, mercoledì, giovedì, venerdì, sono contento, ma a me mi mette in tristezza il sabato domenica, non lo so perché. Perché non fai niente, magari se si andava a mangiare una pizza in un locale, cosa, si passava il tempo così, capito? Per forza, ho trovato una persona che rompe le balle, quella tipa lì, per carità, fosse stata almeno una persona seria, ma non l'hai mai stata. Vabbè, ma le donne sono tutte così. Ma è sbagliato però. Adesso mando un messaggio a Angela del casting e Maria Buone Donne, Maria Filippi, e le scrivo, io dai, fai più fretta possibile, fammi chiamare che ne ho molto bisogno di trovare una compagna così seria, così me ne vado via direttamente, esce la mia luce. Ma perché io però ci voglio più stare, allora mi sono rotto, guarda. E te ne parti fuori? Ah no, la roba necessaria, tutto il resto, ho dato mio figlio, dico, figlio di tutto, via, non voglio più niente. Quindi, è comodo perché c'hai tutto, capito, vuoi un attrezzo, ce l'ho, vuoi qualsiasi cosa che tu pensi, ce l'ho, c'ho tutto, capito già. Però arrivato a questa età, sono già in pensione, boh, non voglio fare più nulla, non nasce più gana. Ho fatto male a comprare tutti questi baracchini, che... vuole la casa più ordinata, c'è troppo casino, aveva ragione pure la mia ex moglie, dice, ma è un casino che c'è la casa tua, a me fa ragione, mobile qua, mobile là, costruisci quello, costruisci quell'altro, bombatta, niente, io ho la circolare, era quella che avevo qua già, l'ho venduta, mi sono pentito, quando l'ho ritrovata, nuova di nuovo, me l'ho ricoperta con la scatolata, nuova di zecca, mai usata, pensa un po'. Troppa roba, compri, perché pensavo le cose cambiavano qua, anche la veranda, invece la veranda non è cambiata, e quindi me ne è sceso proprio, per carità, boh, non mi sa bene. Ma lui avrebbe il dovere di aggiustare le cose che si rompono, eh. Essendo il padrone di casa deve fare quello, le cose che si rompono deve metterle a posto, non può lasciarti così. Ma aspetta, Allora, tu hai ragione, io ho ragione, ma lui non la pensa così. Allora, a parte la veranda, ho lo scaldabagno che meno male gli ho messo la pompetta che scarica nella doccia, perché sennò nella valvola di ritegno mi perde acqua, mi allaga la, una volta mi ha allagato la casa lì, e io ho messo la pompetta di scarica e perde acqua. Ho lo scarico del bagno che mi perde acqua dentro il gabinetto stesso, scende fino all'acqua e sempre perdere di acqua, e ci vuole la cassetta nuova, lo scaldabagno vuole lo scaldabagno nuovo, oppure la valvola, non so cosa va su chi è. Anche se potrei saperlo, io non so niente sulla pensione, non è vostro lavaggio già, io per lui non faccio niente, io sono affitto una mobiliata, tu me devi dare perfetta la casa, non me la è perfetta, pigliatela in culo, capito? Io sono fotologia ormai, basta, essere preso per il culo, fare tutto io perché so fare tutto, no, per questi personaggi nuda, mi chiede anche un affitto in avanti, ho bisogno di soldi, ma se muoce il fame, la parola non è mai domandato nuda, anzi è possibile te ne lava, chi te ce ne vuole sempre, ma è ammazia, oi. Comunque per la cassetta che ti perde acqua la puoi regolare dal galleggiante, tu lì. No, ho già controllato dal galleggiante, sono quelle cassette bianche a zaino che il coso in plastica si è mezzo rotto, capito? Ci vuole nuova la cassetta, l'ho già guardata. Quindi se il galleggiante l'avevo già registrato, l'avevo messo anche il galleggiante silenzioso, cioè faccio anche questi lavori, ma ho detto per lui, io non so fare più niente. Per questa gente io sono zero, è come che era un cassiere, cassava il soldo e basta, a chi non li posso più nulla, non si merito neanche l'acqua che bevono già. Mi ho comprato 6 casse di acqua, non mi ha dato neanche i 7,50 euro che ho speso per le bottiglie grandi. Per dirti, a questi livelli siamo, ma che riesco a cui fate a poco mi ha chiamato, si accompagnava a Olbia, andiamo a tornare a Tonosa, mi dispiace a tu, io domani andrò a studiare e devo andare a studiare veramente, ho detto, e poi c'è la zappa, il motore è rotta, non posso accompagnare nessuno, mi dispiace. Te ne ho detto la chiesto per le zie, accompagnare la salsa per la spesa, no, mi spiace la macchina rotta. Non posso più, ha preso per il culo, basta, mi ha rotto le palle. E di quelli che vivono gli spedienti, sulle spalle degli altri sempre. Vabbè tu lì. Non ti l'abbiglia, ti sei che la sua casa, buonanotte, ti romani non ammai. Sì, ma sai cosa vuol dire? Per 12 anni ho fatto lo scemo per questa gente. Per 12 anni, non un mese, due mesi, un anno. 12 anni. E non voglio sempre approfittare. No, mi sono ribellato, mi sono rotto le palle. Dico sempre no, no e no. E se rompe sale balle, non ti manco. Quello che ho finito ti piglio pure, fatemi la cura, ti denuncio pure che sono in nero. Non mi rompo la sale balle, chi so con la bimba. Ma io mi ricordo una volta che ti hanno trovato i giardini, al giardinetto del monte con Luca Manicoli. Come, te lo ricordi? Tu mi avevi detto che abitavi in una villa, che abitavi in una villa bella, grande, poi ti avevano fatto uscire da lì così. Ma sì, me l'aveva trovata la casa che aveva morto la madre. Perché sennò l'altra casa era meglio. Sì, ma anche la padrona, 100.000 volte, non come ti dico, guai, te lo ho detto, mostri e fammi. E lui mi ha portato una volta a Porto Cervo a vedere la casa che sta facendo bella grande, capito? Lui fa sulle spalle mie, e tu non così, la casa è nocchi. Tu hai bisogno di soldi, io ho bisogno di avere una casa adeguata. Quindi mi perde questo, perde quell'altro, la verata come è fatta, io quando era scorso ho detto, no, quest'anno già. Pago tutto io, faccio la veranda e poi scontiamo con l'affitto. No, a me soldi mi servono, già faccio stare i miei muratori. È passato un anno, sono sempre così. E ho detto, questo, che scivolato vorrei stare bene fuori, perché se vado bene scivolo. E mi sono fatto male, tu cerchi di fare la veranda. Sì, intanto non sappiamo niente. Cosa cazzo vuoi dire? Cioè, la devi fare quando faceva. Non l'hai fatto di chi, non l'hai fatto di inverno, ma non devo cagare un bazzino, allora niente. Adesso lo sto evitando del tutto, non mi frega più niente. E quando ti trovi a casa, non mi dire nulla, quando ti trovi a casa, come si deve, lui dice che te ne vai e buonanotte. Naturalmente devi prima appurare che la casa sia nelle condizioni che desideri tu, perché se no fai come quella di casa che ti danno dopo di un mese e ti tocca sempre trasferirti. Ti cerchi una casa che sia fatta a regola d'arte, dai, per te. Sì. No, adesso quando trovo la casa con calma faccio come ha fatto l'altra volta, trasloco tutto il colpo, lui manco se ne accorge. Quando tu finito ho vinto di lì a tuo cognato, to, dai le chiavi, non ci sono già più, ciao, è mennato, finito, ecco, questo li faccio, lo meno scherzetto, e che mi dica te sei andato senza avvisarmi, è perché tu cazzo non mi hai preso per il culo della veranda, allora tenetela così, affittala così, vedrai che ti vado a fare culo pure a te. Vabbè, Solo che dispiace che ha fatto troppi lavori in quella casa, si sta dei giorni e giorni facendo quel ripiano, quella casetta, tutto quanto, e la buia tocca di sfarne tutto. E vabbè, quella casetta la smonto tutta, pazienza. Se trovo un altro posto che c'è un pezzo di terreno, glielo faccio stesso, non c'è problema, anzi avrò molta cosa da fare almeno. Tanto il materiale da ce l'ho, non mi manca. No, già, mi sono scocciato, prendimi in giro, basta, buh. L'uomo lo stesso, e anche la formica, alla fine sopporta, poi si gira anche la formica, capito? E così sono io sono troppo buono fino a un certo punto, poi quando, 12 anni sono sopportati, basta, non ce la faccio più, basta, adesso mi mandi la fanculo, buh. E venga a gennaio a chiedermi l'affitto, cosa vuoi? Quando mi accorse la veranda, poi del brutto glielo dico, non mi frega niente, i soldi ce l'ho ma non te le do. Anzi, forse sto pensando di aiutare la veranda io, e così, da ascoltare, 4-5 mesi, un anno, quello che spendo poi te lo faccio sapere. Se ce l'ho, allora fa una cosa, bisogna che c'è di casa, escimi da culo. E basta, è arrivato a questo punto. Cioè, sono anche nero, io non sono messo a regola e ti faccio il contratto, e poi... Ed è peggio della giuridica, cioè la giuridica è stata in gamba la donna con le palle quadrate, lui è un pezzo di merda, morto di fame, sempre ciò ti vuole, ma vai, scimmi a culo, vai, per carità. E di quelli che guardano solo i soldi e basta, non pensano che uno può star male se la casa non è a posto. Lui abitava a Parigi, la moglie l'ha mandata in affanculo già, per carità, ecco adesso ho capito perché c'ha un carattere di merda. Oioioi, ma che fa mica? Vabbè, cosa devi fare? Ah, tu sei più diplomatico, guarda c'è più casa di Nande, buonanotte. E non stai a dirarti a fare, è di una fruttita di faccia a barba nuda. Sì, beh, io faccio questo scherzetto qua e basta. Oia, adesso faccio cercando, chiedendo uno all'altro. Come trovo casa già, al volo guarda, sto già, non ho fatto, mi caricavo la macchina giorno per giorno, siamo i sedili, io tempo una settimana tutto fatto. Poi quando mi rimane la roba più grossa, immobile eccetera che c'avevo io, chiamo il camioncino, a me la domenica non c'è nessuno, carico, aiuto, via. Tutta la gua. Allora, con questa gente bisogna fare così, se lo merita perché sono stronzi. E che tu pensa, non mi accorto la veranda, e se la veranda ti pensi che posso chiamare per lo scaldabagno? Ma stiamo scherzando, lo certo ti dice, e io non faccio il idraulico, capito? E il bagno è la cassetta, sembra quello c'ho ancora rubiti quanti che volevo mettere il miscelatore, ma non gliene metto. Anche dopo che ho smontato il lavandino e ho messo lo scarico spiralato, che è molto meglio, che si intasano con la piletta che c'era, quelli antichi, e glielo ho cambiato. E adesso basta però, non faccio più nulla, non se lo merita, detto, non ho messo neanche quelle profonemmela che ho comprato io, gli altri scatti di luce, non glielo piazzaccio ancora la padina e nuda qua, e non il bongo, ce l'ho sempre conservate, così come me le vado via sono già pronte smontate, no già, se tu eri qua l'avete già mandato a far culo da prima. Sì, io in quelle condizioni non avrei vissuto naturalmente. Avrei preferito stare nella casa di grazia, uscire fuori per telefonare, però almeno era la casa come si deve, diciamo, abbastanza nuova, arredata bene. La mia ex me l'ha detto. Peggio per te che te ne sei tornato là, ha detto, lo sai, lì a Arbore Amara non prendeva il telefono, è venuta che Gianni l'ha controllato, non prendeva niente, nulla, si è messo a tornare di notte e uscì, poi il baracchino poteva manco piazzarne, e quindi già quelle due cose, già sei lontano, che era in casino, catte poi, guarda, come caso mi è piaciuto un bel, fatelo preso subito, però se quelle condizioni che non prende il telefono, poi piazza il baracchino, c'era uno morto. Quello sì, perché sei solo. Allora il telefono se ci fuori prende, nello spiazzo, io ho visto gente che stava telefonando, quando stavamo facendo quella a voi, che stavamo pensando con la rete, c'era gente che stava telefonando fuori, mi avvicino fuori per prendere, perché all'interno non prende, quello sì. Ma quelle cose si possono risolvere, vedo un'antenna su internet adesso che si attacca adesiva, si attacca al telefono e ti aumenta il segnale radio. Gianni, allora, tu ci fuori riprende, e se io di notte, le 11 e mezzanotte, voglio parlare al telefono con una persona, devo uscire in mutande, se sono coricato, oppure devo vestire e pigliarmi il freddo, vuole telefonare, e sta piovendo, non va bene, Gianni, non va bene, non ci vuole un ponte ripetitore, ma basta, siccome mi hanno già detto che le persone che abitano lì sono poche, non c'è il tanto per mettere un ponte ripetitore che costa molto, tutto qua, allora evitato di tornare qua, ho fatto male, devo cercare un'altra casa migliore, anziché tornare qua. Questo dovrete ragione alla mia ex, che aveva ragione anche mia figlia. Scopa tua te ne sei tornato là, come fai a vivere? Lo so, sto stringendo i denti già. Aspetta. Sto sempre cercando, chiedendo amici, quello e quell'altro, vediamo un po' se trovo un po' di meglio, me ne vado via. Tanto, sono in pensione, non sto lavorando qui. Adesso vediamo, sto anche meglio e quindi posso girare anche di più. E infatti adesso c'è più tempo per cercarla, per farla, non devi avere fretta, guarda quella che ti conviene, che è fatta a tue esigenze, perché anche tu le tue esigenze, devi avere una casa che a te ti vada bene, non è che buscasse più giambelli. Certo. Io purtroppo sono deciso, perché se non trovo qua entro dicembre io me ne vado fuori. Ho usili, non di mezzo che ho sempre già con una compagna pura e mi hanno pura. E cagliuzzi! Con me, loro sono i miei figliuzzi, guai chi le tocca. Credo che li abbandonavi. Ma stai scherzando? Mi posso abbandonare io, ma non i cani. Le voglio troppo bene, già non esiste. La gente che qui ci sono ancora i miei figliuzzi, li voglio troppo bene, sono pensato a me, avevo due mesi, sono 3 anni. E quindi sono molto molto attaccate a me. Se vedi le feste che mi fanno quando manco 2-3 ore, per carità, si mettono anche a gridare saltandomi addosso, contenti, me le sbacciucchio, me le gioco, me le coccolo, bellucci miei. Sì, già lo so, l'hanno usato anche con me, mi sono venuto in braccio, perché sono esercitati quei cani, c'erano tanto del Jack Russell quei cani. Allora andrà bene. Ok, dai, 104 già, che me ne voto, non ho visto che non è entrato nessuno, pazienza, dai. Ci sono tutti gli occhi di porco e non vuole entrare. O forse che ci sono lì, dopo la fastidio qualche duro. E cosa me ne affronti? Ok, dai, ci sentiamo Gianni, stammi bene, ci sentiamo domani. Ciao, buona cena quando la fai e buona notte. Ciao ciao. Ciao Tony, buonanotte anche a te, dai, buona carica quando la fai. Ciao ciao. A domani, ciao. Ciao.